Perché? Per protestare contro i cosiddetti grandi della terra che vengono qua, spendono milioni per fare pranzi, cene e non danno risposte concrete agli aquilani che stanno ancora nelle tende. Però a livello mondiale sembra, no, che si prendano impegni per l'Africa, per l'acqua, per la fame nel mondo. Eh sì, sembra, ha detto bene, sembra. Le Però parole ne insomma, le sentiamo tante, parole ne abbiamo però di sentite fatti alla tante. fine, voglio dire, sono stati costruiti per i militari, i vigili del fuoco, delle strutture e per gli abitanti ancora non ci stanno le case, si ritrovano ancora dentro una tenda.